Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10:07, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero. Prima di raccontarvi l'argomento di oggi, dovreste conoscerlo, ecco, se andaste su Facebook così lo potreste leggere, oppure sul nostro sito che è www.radio24.it. Lo dico perché poi sul sito di Radio 24 è possibile ascoltare anche le vecchie puntate, si possono scaricare, ascoltare i podcast, eccetera. Lo dico perché chi lo chiede così lo sa. Allora, i numeri, cominciamo da quelli, vai, i numeri per i vostri messaggi: 349-238-6666. Poi il numero verde, perché anche oggi alle 11:30 giocheremo con il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1.000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. Come sempre, si tratta di una delle notizie della settimana, oppure di un personaggio conosciuto, oppure di qualcosa di particolarmente conosciuto. Attenzione al primo indizio di questa settimana: i migliori anni della nostra. Siccome avete da ridire sugli indizi, quello di oggi è un indizio particolarmente indiziario, diciamo così. Per cui state attenti a quello che viene raccontato in quella canzone, comunque l'avete sicuramente riconosciuta. Il numero verde per prenotarvi fin da adesso: 800 24 00 24. Allora, oggi parliamo di divertimento low cost, nel senso che è possibile divertirsi anche spendendo poco o non spendendo niente o veramente pochissimo, e cercare di passare del tempo in un modo creativo, divertente, che non sia così stare davanti alla televisione a guardare il nulla, oppure contemplare l'altrettanto nulla. Anzi, di contemplazione parleremo, ma di altre cose, non certo della televisione, oppure lì bighellonare senza saper bene che cosa fare. Insomma, è possibile crearsi, costruirsi degli interessi, cercare di trascorrere del tempo in modo anche alternativo, insomma, cercando di scoprire cose un po' diverse dal solito. Se avete delle proposte, però, fatecele sapere via SMS oppure sulla nostra pagina di Facebook, Il riposo del guerriero. Lo dico perché così oggi cercherò di chiacchierare con qualcuno degli ospiti, e quindi parleremo anche di situazioni localizzate in una regione piuttosto che nell'altra. Però sono moltissime le opportunità, e quindi il vostro contributo è assolutamente necessario. La puntata di oggi vuole essere un po' uno stimolo a trovarsi degli interessi, a trovarsi delle cose da fare, dico, senza spendere troppo. Questo è l'argomento di oggi, il divertirsi low cost. E allora, siccome siamo felici, cominciamo col sorriso. Ricordate gli Chic di un bel po' di anni fa con Good Times? Però era un modo per cominciare con il sorriso. Intanto arrivano anche delle vostre proposte per divertirsi low cost, fatene, perché le possibilità so che sono tante, anche intorno alle vostre città. Indubbiamente ci saranno posti che organizzano incontri dove è possibile divertirsi, fare delle cose a costi, insomma, molto bassi, ridotti o addirittura zero. Però c'è qualcosa con la quale possiamo giocare tutti i giorni e che non costa assolutamente nulla, perché ce l'abbiamo proprio in automatico, appena nasciamo già quello ce l'abbiamo, e sono le parole. Ciao Francesca, buongiorno. Buongiorno a tutti. La nostra glottologa che oggi ci farà un po' giocare con le parole. Potremmo cominciare adesso e non finire mai, visto anche il tuo mestiere, ovviamente. Quindi ecco, tu giochi con le parole tutti i giorni. Beh sì, come dicevi è un fatto fondante dell'esperienza umana, l'acquisizione soprattutto del lessico da parte dei bambini è una forma di gioco perché implica il contatto con la realtà ma anche la sua rielaborazione, manipolazione e infine organizzazione all'interno del cervello, quindi si gioca da subito con le parole. Ecco, allora cominciamo da lì. Io ho la prima domanda da farti che è questa. Sì. Quando ci si relaziona con i bambini piccoli, immancabilmente diventiamo stupidi perché cominciamo a fare ti piace, ti vedi che facciamo tutte quelle vocine come se fossero scemi i bambini, hai capito? Però non ho capito se lo siamo noi a parlare in quel modo oppure se è proprio un modo giusto di comportarsi e di parlare quando si ha a che fare con i bambini molto piccoli. Il riposo del guerriero. Eccoci qui, allora Francesca, è giusto parlare così con i bambini o mica tanto? Io sono assolutamente contraria, soprattutto dal punto di vista professionale. È interessante, sono interessanti due cose a questo proposito. Il primo è che la varietà a cui facevi riferimento viene chiamata madrese con un neologismo di qualche anno fa, la lingua impiegata dalle madri, questo perché tradizionalmente sono più le madri ad occuparsi dell'educazione anche linguistica dei figli, ed è interessante il fatto che il cosiddetto madrese dovrebbe riflettere quella che è la competenza del bambino, però di fatto non è così perché bombarda continuamente il bambino di vezzeggiativi, di ripetizione delle stesse parole, delle stesse stringhe di suoni. E quindi io personalmente, tanto più che in questo momento ho un bambino che è nella fase della lallazione, quella immediatamente che precede immediatamente la produzione delle prime parole, preferisco rapportarmi a lui come ad un adulto. Poi naturalmente ci sono i momenti di gioco in cui la curva della voce sale, però per aiutarlo a sviluppare l'acquisizione linguistica preferisco rivolgermi a lui come ad un adulto. La cosa però veramente interessante, fatemelo dire, è che le caratteristiche del madrese, quindi l'uso di diminutivi, l'uso di parole che contengono statisticamente di più la vocale I che non le altre vocali, ritorna in un'altra fase della vita, la lingua degli innamorati. Quindi quando ci riferiamo ai trottolini, agli amorini, ebbene sì, è così però. Ritornano, ci sono delle convergenze fortissime con la lingua utilizzata con i bambini molto piccoli. Ecco, vabbè, insomma, quindi è un po' perché l'amore dei genitori verso i figli, insomma, quello che spinge, no? O anche che l'innamoramento fa tornare allo stadio il concetto è che non è l'infante che parla così, sono i genitori che parlano così. L'infante, secondo me, potrebbe anche non parlare così. Come si chiama l'allazione? La lallazione è quella fase in cui sentite i bambini dire consapevolmente papà, pa, mamma, mamma. Dico consapevolmente perché già da molto piccoli i bambini vocalizzano, come abbiamo detto l'altra volta, quindi producono quella ridda incredibile di suoni che servono a sperimentare i limiti dell'apparato fonatorio, quindi della bocca, di tutto quello che usiamo per articolare. Si entra poi in questa fase che si chiama lallazione, lo dice la parola stessa, dire lallà, che precede lo sviluppo delle prime parole, le protoparole, le cosiddette protoparole, cioè quelle parole che ritroviamo in tutte quante le lingue del mondo come le prime ad essere prodotte dai bambini, mamma, papà, cacca, tata e così via. Ecco, che curioso, appunto, come dicevi, che insomma non è nazionalizzata la questione, tutti no. Più o meno hanno gli stessi suoni. È una sorta di universale, tutte le lingue del mondo, indipendentemente dal tipo, si sviluppano nel bambino, si acquisiscono seguendo una sorta di ordine rigido, sicuramente un ordine che è determinabile e che va dalle labbra verso la gola, quindi è per questo che le prime parole sono mamma papà, perché vengono prodotte con i primi suoni consonantici ad essere stabilmente acquisiti dal bambino e con la vocale più facile di tutte, che è la A, che si produce tenendo la bocca aperta. E allora siamo diventati un pochino più adulti e cominciamo a riconoscere le parole, possiamo anche pronunciarle magari correttamente, e come possiamo divertirci con queste? In tantissimi modi, pensiamo al gioco dell'impiccato, che poi ha una controparte nella ruota della fortuna. Ieri, così proponendo il solito sondaggio nella bacheca di Facebook, ho chiesto ai miei amici i giochi a basso costo con le parole a cosa vi fanno pensare. A parte che la prima cosa a cui tutti pensano non sono i giochi con le parole, purtroppo, ma campana, mondo, pizzica arrampichino, chiamato poi in tanti modi appunto le varie realtà locali, dialettali. Però per quanto riguarda le parole, gli elementi più gettonati, i giochi più gettonati, oltre a quelli che ho già citato, sono le catene basate sulle assonanze, oppure quel gioco che consiste nel pronunciare una parola che ha per iniziale l'ultimo suono, l'ultima sillaba della parola che è stata appena pronunciata, quindi che so, albero, olmo, otranto e così via. Poi il più celebre è fiori, frutti, animali, cose, anche questo noto a molti come nomi, città, animali, si dà un iniziale e per ognuna delle categorie prescelte bisogna indicare un elemento che appunto abbia quell'iniziale e si va al computo finale, si cancellano le forme che sono state utilizzate da due o più parole, quindi non si ottengono punti, si prendono punti invece per le forme più originali, quelle meno usate, insomma. E questo ci fa capire però una cosa, che sarà sì low cost giocare con le parole, perché tutti le acquisiamo senza fatica nella nostra lingua materna, però è anche un prezzo alto quello che si deve pagare, ed è il prezzo della conoscenza se si vuole avere un bagaglio di parole più forte, più ricco rispetto agli altri. Ecco, però forse giocare a giochi di questo tipo, insomma dipende anche con chi giochi, può servire a costruirsi un po' un bagaglio. È vero che dovresti avere un dizionario a fianco di solito, come quando giochi a scarabeo, anche se devo dire che è un gioco ad esempio molto popolare negli Stati Uniti e molto meno popolare in Italia. Io sono una fan da ormai da diversi decenni dello scarabeo, da epoche. sì, beh, proprio da quando. Beh, pensiamo al Paroliamo, dagli anni 70. Sì, lo conduceva Lea Pericoli, fra l'altro, Paroliamo. Ricordo un presentatore uomo della fine degli anni 70, ma probabilmente non era il primo. Però mi ricordo che avevo 4 anni nel 78 ed ero proprio un'appassionata di quel gioco, che poi mi ha aiutato veramente ad acquisire tante parole. E poi il dizionario ce l'abbiamo sempre dietro, perché il nostro cervello funziona come un dizionario, quindi quello che cambia tra un individuo e un altro è lo spessore di questo dizionario. Ritorniamo al problema della conoscenza. Certo. Allora, tra i tanti giochi del passato che tornano di moda, ce n'è uno del quale parleremo tra poco, e che è la trottola. Da dove arriva questa parola, che tra l'altro sembra quasi anche onomatopeica? Di ipotesi più accreditate ce ne sono due. Questa parola è notissima appunto per il gioco che tutti da bambini hanno praticato ed è stata rilanciata nella forma del diminutivo dalla canzone di Minghi e Mietta del trottolino amoroso, dove trottolino fa riferimento a un bambino. Viene utilizzata questa parola in italiano per indicare il bambino che non sta mai fermo, non fa che giocare. A proposito delle ipotesi etimologiche, per quanto diverse, tutte e due rimandano a un'interpretazione di tipo descrittivo, perché per la prima si tratterebbe di una parola connessa con trottare che ritroviamo anche nel trotto dei cavalli, quindi una parola che è collegata e da riconnettere al mondo germanico e che avrebbe a che vedere con il camminare, con una forma intensiva di camminare. La seconda invece ipotesi ci rimanda al latino e in particolare al verbo torquere, che è l'antecedente del nostro torcere. Quindi se ci pensiamo, l'idea di torcere fa riferimento al movimento che serve per lanciare la trottola. L'idea della riconnessione col germanico, del camminare, ha invece a che fare con il prodotto del torcere, quindi con quel camminare anche con un andamento circolare veloce che constatiamo una volta che l'abbiamo lanciata. Ecco, visto il periodo, io preferisco questa interpretazione rispetto a quella che arriva dalla Germania. No, sì. Per capire. Così, è semplicemente una preferenza. Mi piace di più pensare che sia torcere latino, ha anche più senso forse, no? Perché il movimento è quello, per cui la trottola gira su se stessa e quindi potrebbe essere. Però vabbè, non voglio addentrarmi, non voglio fare mica il glottologo, è solo un pensiero. Hai visto mai? Una preferenza, ovviamente. Non è mai troppo tardi. Allora, Francesca, grazie. Ricordiamo intanto, per continuare a giocare con le parole, la possibilità di andare su Facebook, e vuoi ricordare la pagina, a parte la nostra Riposo del Guerriero, ma poi c'è anche quella dedicata proprio alle parole delle quali parliamo ogni domenica. Sì, Io naturalmente ne continuo a parlare sulla mia pagina di Facebook, oltre che sulla vostra, che ogni domenica imbratto con le mie considerazioni, e poi sul mio sito blog, che è tuttopoli.com. Ecco, quindi tuttopoliamo. Grazie Francesca. Grazie, ciao, ciao. Grazie a voi, buona domenica. Come bambini, no, tuttopoliamo, perché questo mi viene anche a me di parlare come avevo detto lì, che non avrei mai fatto. Allora, Michele Ricci, ciao, buona domenica. Buona domenica, buongiorno. Ciao Michele, allora dobbiamo prima raccontare una storia agli ascoltatori, perché forse non conoscono questo fenomeno, possiamo chiamarlo così. Allora, tutto nasce da sempre, da quando c'è l'uomo, la trottola. Poi a un certo punto questa trottola viene ridisegnata, messa in forma di fumetto e di manga per l'esattezza, e diventa un'anima, no? Quindi la possiamo vedere con grande successo in televisione, l'abbiamo vista, anzi forse fino al 2004. Parliamo di che cosa? Di Beyblade. Parliamo di Beyblade, ecco. Sì, che sono le trottole di nuova generazione. Sono nuova generazione perché appunto sono totalmente diverse rispetto alle trottole classiche, non sono più tutte di un pezzo, come dire, ma sono ancora più potenti, perché sono in metallo, sono divise in 5 parti, e più ne acquisti, più ne hai, più hai la possibilità di cambiare queste parti e quindi creare il tuo modello di trottola vincente. Allora, appunto, nasce tutto da un cartone animato, per dirla in italiano, che ha per protagoniste dei personaggi che usano queste trottole speciali. Queste trottole poi sono state create fisicamente, e addirittura ne è nata una disciplina sportiva. È nata una disciplina sportiva, sì, l'associazione sportiva dilettantistica, che appunto è Beyblade Italia, che è riconosciuta dal CONI, e come mai ci hanno riconosciuto? Perché Beyblade è diventato non più non solo un gioco, ma veramente un vero e proprio fenomeno, un vero e proprio fenomeno di costume. Come dicevi tu, appunto, c'è una serie televisiva, quindi un cartone animato, che ha fatto la fortuna sicuramente di Beyblade, e che quindi fa sì che Beyblade sia conosciuto e sia il gioco preferito dai bambini più piccoli. Però appunto Beyblade è un gioco che veramente piace a tutti, e quindi piace anche ai ragazzi più grandi, perché proprio per questo discorso della personalizzazione, quindi veramente un gioco senza età. Ecco, perché in realtà la trottola ha una sua base, diciamo così, alla quale posso aggiungere dei pezzi. E in cosa consiste la gara? La gara consiste che appunto le due blader, si chiamano così i giocatori, tirano la propria trottola, personalizzata o meno, all'interno di un'arena, e la prima trottola che si ferma appunto perde. E diciamo, questo sembra in realtà una banalità, però invece è molto difficile prepararsi sia nella costruzione della personalizzazione della trottola, sia diciamo anche nel lanciare questa trottola, perché ovviamente ci sono molte tecniche legate al lancio, e a seconda di come la personalizzazione della trottola viene fatta, ovviamente il lancio deve essere diverso, per cui è proprio difficile, appunto, e i ragazzi si allenano moltissimo proprio per riuscire ad effettuare il lancio migliore. Ieri abbiamo avuto il nostro vincitore nazionale, noi abbiamo fatto appunto una serie di tornei in tutta Italia, quindi proprio perché nasce questa associazione sportiva dilettantistica, che appunto è Beyblade Italia, abbiamo deciso di trovare il nostro campione nazionale. Quindi campione nazionale siamo andati a gennaio in tutte le regioni italiane, e poi ieri a Roma, io ancora mi trovo a Roma appunto, perché siamo stati al Foro Italico, proprio perché appunto tutti i vincitori dei tornei regionali si sono incontrati qui a Roma, e abbiamo trovato il nostro blader nazionale, che si chiama Marco Elba. Quanti anni ha? Ha 11 anni ed è appunto nella categoria junior. Come ti dicevo, ne abbiamo due, quindi uno legato alla categoria junior, che è Marco, e un altro vincitore della categoria senior, che invece ha 18 anni, che si chiama Gianluca e viene da Napoli. Ecco, tutti e due andranno poi a Toronto ai mondiali? Andrà solamente il vincitore della categoria junior. Ah, ok, quindi insomma si vedrà anche Toronto grazie a questa iniziativa, e combatterà con tutti i Beyblader del mondo. Esatto. Ecco, quando... Hai anticipato tu, perché appunto tra un mese, quindi il 25 sì. marzo, ci sarà questo grande torneo mondiale di Beyblade a Toronto in Canada. Ecco, quando un concorrente si sfida l'altro, è a conoscenza delle componenti della trottola avversaria oppure no? Le vede, perché comunque le parti sono abbastanza visibili, ci può essere qualche pezzo che l'avversario non riconosce, però in linea di massima i pezzi montati sono abbastanza riconoscibili. Ecco, chiaramente questo è un gioco che poi si può anche rendere in forma assolutamente personale, con delle trottole normalissime, e farle scontrare e cercare di capire quale delle due riesce a vincere sull'altra, perché per forza di cose una cadrà prima dell'altra. Insomma, certo. Questo poi è un gioco che abbiamo sempre fatto, poi adesso è diventato ancora più sofisticato e, curiosamente, lo ribadiamo, è diventato uno sport che ha avuto il riconoscimento ufficiale del CONI. Esiste un sito che è www.beybladeitalia.it, certo. Per andare a vedere, insomma, i video che avete creato e per capire un po' come seguire questa cosa, ed è credo anche un buon sistema per giocare su tutto il mondo di Beyblade. Ecco, anche, ma devo dire, è anche un bel modo per giocare con genitori e figli, no? Che possono farsi le sfide. Poi le trottole, al di là di tutto, possono essere lanciate in qualunque punto. Voi lo fate in un'arena, in un ring, diciamo così, per evitare che le trottole vadano in giro, perché possono muoversi se no di più, però uno poi può giocare assolutamente dove vuole. Grazie, e insomma, Michele, speriamo che il nostro campione italiano, Marco, se non mi sbaglio, riesca a Toronto a portarsi a casa il titolo di campione del mondo. Insomma, noi glielo auguriamo. Facciamo ovviamente tutti per lui. Assolutamente sì. Grazie Michele Ricci, ciao. Grazie a voi. Grazie. Buona domenica. 10:30 minuti, la pubblicità, e poi torna Riposo del Guerriero. Vi ricordo sempre di scrivere quello che è il vostro modo di divertirvi low cost attraverso Facebook Riposo del Guerriero, oppure al 349-238-6666. Il riposo del guerriero. Parliamo di divertimento low cost, cerchiamo di, insomma, divertirci spendendo poco, magari anche niente, ma niente abbiamo visto. Con le parole si può fare una penna, un taccuino, poi insomma qualcosa, un po' di investimento c'è. C'è un ascoltatore, dice: io a strabasso costo gioco a ping pong con una persona brava, io adoro il ping pong. In effetti, insomma, non è assolutamente costoso, bisogna trovare il tavolo dove forse l'unico vero investimento è quello, però è sicuramente uno sport divertente che fa passare il tempo e che, ribadisco, non costa molto. Allora, qualcuno scrive su Facebook che Carlo, ma invece c'era scritto Calco, questo è il nome che c'è su Facebook. Dice: il mio tempo libero lo trascorro su internet, girando il mondo, spendo solo il canone ADSL. Ecco, io vorrei farvi uscire invece oggi, vorrei farvi allontanare un po' dai monitor in qualche modo. È vero che poi possiamo anche seguire internet attraverso i cellulari, eccetera, però visto che ormai c'è già il profumo di primavera in giro per le strade, quindi vorrei portare fuori. E allora andiamo in un posto, al castello di Grumello. Cristina Ketriz, buona domenica. Buongiorno a tutti voi. Allora, Cristina è la titolare del castello di Grumello, c'è il sito che è castellodigrumello.it, e lì si organizzano eventi in continuazione, anche perché il castello lo permette. Siamo vicino a Bergamo, se non mi sbaglio? Sì, siamo proprio a 10 minuti di autostrada da Bergamo, quindi molto vicino anche a Milano, a Brescia. Quindi. Ecco, allora, Cristina, tra le tante iniziative che ci sono, una ci piaceva in modo particolare, ed è quella di far rivivere la storia alle persone che frequenteranno il castello le domeniche 18 marzo, 15 aprile e 6 maggio. Sì, infatti noi il castello anzitutto è un castello di origine medievale, quindi ha una parte medievale, poi dopo è stato trasformato in residenza, quindi ha un suo fascino con la sua torre, la sua sala dei cavalieri e poi le cantine che sono i sotterranei del castello, dove oltretutto si produce un ottimo vino. E quindi abbiamo deciso di aprirlo non solo al pubblico per le visite guidate, per le degustazioni così, sempre tutto l'anno, ma anche per i più piccoli, e allora abbiamo deciso di farli rivivere in questo ambiente particolare che si adatta alla loro fantasia, delle avventure ambientate nella storia. Per cui abbiamo questo gruppo di animatori con cui collaboriamo, molto molto bravi, che accolgono i bambini, li vestono in costume e poi con loro proprio raccontano una storia, quindi i bambini sono protagonisti, non è che assistano proprio, sono loro anche i personaggi. Ma quindi diventa come una sorta di recita, tra virgolette. Sì, sì, sì, esattamente, loro proprio recitano, per cui adesso il 18 marzo sarà la storia dei tre moschettieri, per cui ci saranno i vari personaggi, i moschettieri, il cardinale Richelieu, e insomma tutti, ecco, cosa succede, dame, però i cavalieri, tutto quello che sta intorno, gli armigi, ecco, ognuno quindi avrà un ruolo diverso, quindi saranno così, certo, più contenti i tre moschettieri perché sono i protagonisti, magari gli armigeri saranno un po' meno contenti, ma perché... però adesso alle volte i tre moschettieri sono magari saranno i tre moschettieri, saranno gli animatori e loro faranno il contorno, certo, cioè cosa succederà esattamente, sì. Loro, ecco, però la questione è di vivere una storia, quindi sentire sarà anche raccontare e viverla in prima persona in un posto che la può rappresentare al meglio, questa è l'idea. Sì, loro si divertono tantissimo perché si sfogano, giocano, corrono, fanno le battaglie a secondo del tema e quindi fanno quello che abitualmente non possono fare, perché in casa non possono fare, poi vivendo soprattutto in un mondo assolutamente fantastico, no? Quindi la cosa piace molto, anche loro abituati sempre ai computer, ai giochini, adesso elettronici, questo finalmente ritornano a giocare in un modo un po', se vuoi, tradizionale, ma in un modo molto che piace ai bambini. Ma è certo, perché comunque le due cose, una non deve assolutamente mai annullare l'altra, no, esistono, infatti. E quindi vanno comunque viste tutte e due, anzi grazie proprio alla rete è possibile poi trovare le informazioni per arrivare a quello che organizzate, sì, voi come tutti gli altri. Il sito si può vedere di volta in volta che cosa c'è in programma. Ecco, alcune cose che programmate, fra l'altro sempre relative alla storia, ma ripeto ce ne sono veramente tante, noi abbiamo preso queste come esempio semplicemente perché ho trovato un modo particolare di passare una domenica, e c'è anche la possibilità poi di avere pranzo, degustazione vini, per cui anche i genitori sono assolutamente coinvolti, oltre al fatto di vedere i propri figli interpretare dei ruoli, però anche coinvolti in altre cose come appunto la degustazione, osservare, guardare il castello, che diventa la prima, perché cosa, i bambini ovviamente giocano per conto loro tranne il finale, perché devono proprio non essere distratti dal entrare a pieno nel loro mondo fantastico. Poi, e quindi durante il gioco i genitori fanno la visita guidata al castello e poi hanno la degustazione dei vini, eccetera. E poi dopo, alla fine, assistono anche loro al gran finale. Certo, allora io ti ringrazio Cristina, bravi per quello che organizzate, se non siete troppo distanti da Bergamo potete andare a fare una visita al Castello di Grumello, il sito, ripeto, è castellodigrumello.it. Buona domenica Cristina, grazie. Arrivederci, grazie a tutti, grazie, vi aspetto. Tutti con le maschere, non quelle di carnevale, ma appunto per interpretare dei ruoli. Allora, è possibile giocare in tanti modi e costruirsi anche un passatempo, magari con gli oggetti che ci capitano in mano. C'è qualcuno che con un bastone riesce a fare qualunque tipo di cosa, e l'avete probabilmente visto in Colorado, e lui si chiama Andrea Viganò, in arte Pistillo, e che saluto. Ciao Andrea, buongiorno, buona domenica. Buongiorno Stefano, ciao a tutti. Allora, tu non hai cominciato in realtà con un bastone, facevi tutt'altro mestiere, poi cosa è successo a un certo punto della tua vita? È successo che, vabbè, avevo, insomma, la cosa del bastone è nata perché, avendo troppi oggetti, troppi costumi, troppe maschere, ho detto vabbè dai, cerchiamo di usarne uno solo, e quindi lavoriamo con un bastone, con un oggetto. In realtà, vabbè, prima facevo lo scenografo e quindi mi ha anche aiutato un po' questa cosa, quindi riuscire a utilizzare un po' gli oggetti e giocarci, ecco. Allora, cerchiamo di capire com'è possibile giocare con gli oggetti. Ci sono cose che possiamo fare che sembrano impossibili e che invece si possono tranquillamente imparare a fare andando all'esterno per allenarsi, oppure restando a casa con oggetti che possiamo trovare tranquillamente o reperire a pochissimo costo. Da cosa cominciamo, Andrea? Allora, vabbè, possiamo iniziare ad esempio utilizzando delle palline da giocoliere. Quindi la prima cosa che mi viene in mente a me A me fa sorridere questa cosa perché utilizzando degli oggetti da casa, penso a quando magari costruivamo da piccoli tipo l'aquilone con la carta dell'uovo di Pasqua, oppure la testa da robot col panettone, insomma, un po' più o meno con questa tecnica. Comunque per costruire delle palline da giocoliere serve semplicemente, vabbè, del riso, dei sacchetti tipo quelli del freezer e dei palloncini. Quindi utilizzando appunto questi tre materiali, insomma, bisogna semplicemente mettere il riso dentro il sacchetto e poi mettergli questo vestito utilizzando due palloncini per pallina, tagliando solo la parte superiore. Allora aspetta che spieghiamo bene, perché tra l'altro non la sapevo, nel senso, per costruire le palline da giocoliere, perché devono avere un certo tipo di presa, quindi al posto di usare le arance, le mele eccetera, esatto. È possibile riempire i sacchetti da freezer di riso, chiuderli, esatto, e sì, poi inserirli in due palloncini, come se fosse un profilattico il palloncino, per intenderci, ecco, praticamente così. utilizzandone due, in modo tale che sì, non esca il riso e comunque già c'è il sacchetto, quindi, che lo contiene, e utilizziamo il palloncino perché naturalmente possiamo dare il colore che vogliamo alle palline e con un costo zero, perché forse l'unica cosa che bisogna andare a comprare sono dei palloncini, perché il riso in casa c'è sicuramente, i sacchetti del freezer ce li abbiamo. E quindi niente, utilizzando, va bene, naturalmente dobbiamo pesarle in modo tale che riusciamo a dare lo stesso peso a tutte le palline, possiamo iniziare con tre palline, quindi l'ABC del giocoliere. Ecco, più o meno il diametro di quanto deve essere? Ma lì andiamo a peso, Stefano, perché con diametro all'incirca sui 5-6 centimetri, poi naturalmente uno può farle anche più grosse, però iniziamo con delle palline un po' più piccole in modo tale che anche il bambino, ad esempio, può prenderla tranquillamente. Allora, poi come una volta costruite le palline, non lo sapevo, io sarei andato a comprarle, ovviamente, non ci avrei mai pensato, e in effetti funziona. Una volta costruite le palline da giocoliere, comincio con due palline o con una? Ci sono alcuni step, iniziamo con una, vabbè, sì, spiegandole brevemente, così, insomma, dobbiamo cercare di tenere, insomma, immaginare di fronte a noi una specie di asse, un asse parallelo al nostro corpo, e lanciare una pallina da una mano all'altra, naturalmente mirando appunto la mano opposta, quindi io lancio la pallina e la riprendo con l'altra mano, quindi provando un po' di volte con una. Dopodiché si passa a due palline, quindi alternando si lancia la pallina dalla mano destra alla sinistra e viceversa. Contemporaneamente? Non contemporaneamente, ma contando 1, 2, cioè prima una e poi, sì, l'altra, quindi okay, è un movimento automatico, insomma. Sembra difficilissimo da spiegare, ma in realtà poi ci vuole un po' di pazienza, un po' di tecnica e poi si passa a tre palline con il giro di base, insomma, quindi creando una specie di otto di fronte a noi su questo asse immaginario. Comunque no, la tecnica è molto semplice, naturalmente si parte con tre palline, con il giro base, dopo ce ne vabbè, sono ma già quello, cioè, già il juggling semplice è già divertente, sembra già complicato da fare. Quanto tempo ci vuole per imparare il giro delle tre palline? Guarda, allora, se con una giornata del genere ci vuole un pomeriggio, dai, in un pomeriggio secondo me uno può andare al parco e godersi questa giornata splendida, e un po' di pazienza e si impara tranquillamente. Il giro base sì, poi Mi ci metterò. Allora, intanto le palline da giocoliere le abbiamo fatte con i sacchetti e il riso, adesso vedremo come potremo andare oltre gli aggiornamenti sul traffico e poi continuiamo a parlare con Pistillo. Il riposo del guerriero. Sto cercando di farvi venire delle idee creative per cercare di passare il tempo in modo diverso dal solito, o magari cercando di fare cose che sembrano impossibili e che invece sono arrivabili in qualche modo. Sono con Andrea Viganò, Pistillo, e forse l'avete visto in Colorado, è il clown, chiamiamolo così, il fantasista, io preferisco, che con un bastone riesce a interpretare molti ruoli e trasformare quell'unico bastone in tante cose, grazie ai suoi. Vi abbiamo raccontato come costruire delle palline da giocoliere a casa e allenarsi. Adesso, Andrea, con che cosa giochiamo invece? Allora, mi è venuta questa idea, insomma, naturalmente possiamo utilizzare ancora le palline, sì, Abbiamo appena costruite, sfruttiamo. Esatto, infatti. Quindi passiamo magari a uno step successivo e ci serviranno dei calzini, dei calzettoni, dei calzettoni lunghi. Sì. E attraverso il quale poi andremo a provare l'esercizio delle bolas, che comunemente sono conosciute come bolas, insomma. Quindi dobbiamo mettere un peso dove c'è il piede, giusto? Esatto, così. Quindi utilizziamo le stesse palline, le inseriamo in una calza fino in fondo e poi facciamo un bel nodo. Quindi utilizzando appunto i due calzettoni. Sto ridendo perché le bolas con le calze non le ho mai viste. Viene da ridere. No, poi ai bimbi, ai miei allievi, io dico: beh, divertentissimo. Calzettoni, mi raccomando, prendiamoli puliti dal calzetto, certo. Non puzzoletti. Allora, le bolas, facciamo quelle, vai. Quindi iniziamo anche qui con questo, ma in realtà forse è un po' più semplice anche delle palline, perché si tratta di fare delle rotazioni, quindi alcuni trick con queste calze, con le nostre bolas, e creiamo dei disegni anche a mo' di elica, insomma, quindi possiamo girare le bolas contemporaneamente oppure in posizioni diverse, quindi laterali rispetto al nostro corpo, di fronte, a mo' di elicottero sopra la testa e via dicendo, insomma, quindi si creano delle evoluzioni molto belle, dei disegni, diciamo, molto. Ecco, molto e nel caso si venisse colpiti da una bolas, in questo caso non farebbe male perché no. È un sacchetto di riso alla fine. Esatto, poca sì, roba. Sì, esatto, sì. Ed è un modo divertente, anche più simpatico forse delle bolas, che a me divertono molto, però mi fanno sempre un po' paura, no? Dico, se gli dovesse sfuggire di mano, mi si attorciglia contro il collo e ciao, faccio un esempio. Infatti, l'origine delle bolas è per catturare bolas, gli animali, no? Credo che sia. Era uno strumento da caccia, un'arma, insomma. Quindi, e invece con la calza e il sacchetto di riso credo che sia molto più divertente. E non faccio assolutamente male. Andrea, mi sono sentito un po' Art Attack in questo momento, ti dico la verità. Ecco, però l'idea mi è piaciuta molto e ti ringrazio per le dritte che ci hai dato, ed è possibile che ti ricoinvolgeremo. Intanto grazie, buon grazie lavoro mille a te. E ti vediamo a Colorado. Ciao Pistillo, grazie, ciao Stefano, Andrea, ciao, grazie. Buongiorno a tutti, buona domenica. Allora, andiamo avanti. Sorrido perché io già mi vedo a casa con i miei sacchetti di riso dei palloncini a provare. Non riesco a fare io ci ho provato un sacco di volte a fare il juggling, ma non riesco, dopo un po', ma non so, ma sono io, vabbè, è chiaro, perché in effetti non è per niente difficile. Comunque, vabbè. Allora, tra le indicazioni c'è quella di Fausta di Modena, che scrive: bird watching, vede ad esempio i siti delle associazioni Ebni Italia nazionale o di quelle locali come Modena bird watching o Verona bird watching. Noi non parleremo adesso di osservare appunto i volatili, ma parleremo della possibilità di osservare il cielo. Sandro Bardelli, buona domenica. Buongiorno. Sandro, ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, parliamo dell'Osservatorio di Bologna, però tendenzialmente gli osservatori sparsi per l'Italia organizzano sicuramente incontri per imparare a guardare il cielo, giusto Sandro? Sì, ecco. Sì. Diciamo che la differenza con gli altri osservatori, che qua a Bologna, in collaborazione con Sofus, l'Associazione di Divulgazione della Scienza, che in realtà arruola i nostri laureandi, studenti, e la Fondazione Marino Gollinelli, ci stiamo specializzando per i bambini su piccoli, quindi tra 6 e 12 anni, adesso stiamo andando verso i bambini da 3 a 5. Perché la nostra idea è far imparare giocando e giocando giocare imparando, per cui noi abbiamo un approccio molto fisico con questi bambini, cioè l'idea è che loro devono manomettere gli strumenti, eventualmente distruggerli e fare domande anche piuttosto imbarazzanti agli scienziati e agli astronauti. Cosa chiedono di così imbarazzante i bambini? L'anno scorso abbiamo telefonato sulla stazione spaziale, sì, all'astronauta italiano mentre lui era nello spazio. Il bambino gli ha chiesto: ma se tu fai delle puzzette sulla stazione spaziale, come cambiate l'aria? E come, la risposta qual è stata? Hanno dei filtri. Il problema è che la NASA a un certo punto voleva intervenire per censurarci. E perché? Ma perché? È veramente una domanda lecita, perché infatti, è una cosa che succede. È quello che gli abbiamo risposto a questa NASA. Poi quest'anno abbiamo avuto di nuovo Nespoli, che sul palco ha dovuto giocare con i bambini a calcio mentre spiegava cosa succedeva in assenza gravità, e lo stesso bambino a un certo punto gli ha chiesto: ma voi sulla stazione spaziale come fate a fare la cacca? Allora, sembra una domanda stupida, ma in realtà è una delle, dei problemi più grossi che la NASA si è trovata ad affrontare. Sandro, la realtà è che noi ce lo chiediamo tutti e non abbiamo mai il coraggio di chiederlo, questa è la verità. Ma i bambini sì, e quello è bello. I bambini sì, e la risposta è molto multidisciplinare, perché riguarda la medicina, riguarda la fisica, riguarda la chimica. E quindi dietro questa domanda, Nespoli è stato particolarmente bravo a rispondere, si cela un'infinità di informazioni che ovviamente deve essere rapportata al bambino, ma che poi il bambino è uscito sapendo molto molto molto di più che magari chiedere cosa ha detto Einstein, per esempio. Sì, anche perché i genitori non saprebbero cosa rispondere, quindi così accamperebbero risposte assolutamente insensate. Sandro, allora, noi cominciamo, siamo piccoli, e voi come iniziate a far conoscere il cielo e far capire quanto sia importante osservarlo? Allora, innanzitutto diciamo che per i più piccolini li mettiamo in un planetario piccolino e gli facciamo vedere il sorgere, il tramontare del sole, e chiediamo loro di imitare e mimare quello che fanno durante l'anno, durante il giorno, quindi tutti a nanna, tutti ci svegliamo, mangiamo, se fa freddo si trema. Invece per i più grandini cominciamo in questo planetario più grande a indicare le costellazioni, a raccontare la storia della vita delle stelle. Ci sono delle stelle molto ciccione che vivono poco, delle stelle molto leggere che vivono tantissimo, le stelle fredde sono quelle più rosse, quelle stelle più calde sono quelle più blu, e poi abbiamo tutta una serie di exhibit in cui questo bambino comunque deve sfogarsi, deve di nuovo essere molto fisico, e lo mettiamo su una cyclette che pedalando passa attraverso tutti i pianeti, e su uno schermo si vedono i pianeti del sistema solare. E mentre si passa vicino a Giove, l'attrazione gravitazionale di Giove fa in modo che uno pedalando sembra di affrontare una grossa il Gran Premio della Montagna, tanto per avere un'idea. Sì. Quindi loro associano la difficoltà di pedalare con l'attrazione gravitazionale, e poi ci stancano pure, e i genitori sono molto contenti da questo punto di vista. Ecco, i genitori poi come si comportano in questi casi? Cioè, osservano quello che succede o sono da un'altra parte? Interagiscono interagiscono anche loro. L'idea è fare una cosa rivolta ai bambini, ma che anche i genitori o chiunque vuole possa intervenire. Ecco, la che preparazione c'è da parte dei genitori su queste cose? O non c'è, ecco, quello. C'è di tutto, dal professore universitario che porta suo figlio alle persone più normali. L'importante è aver voglia di imparare e di giocare. Ecco, questa è l'unica imposizione che mettiamo noi. Ecco, noi adulti come possiamo invece avvicinarci a osservare il cielo cercando di capirci qualcosa, e così senza restare al fatto di dire ah, ma che bella notte stellata, che ci sta, però forse da lì andare un pochino oltre. Diciamo che una cosa che su tutta Italia la gente può fare è contattare qualche associazione astrofili e fare veramente una gita all'esterno, perché uno è un po' troppo abbagliato dal fatto dei grandi telescopi, in realtà è una cosa molto professionale, piuttosto noiosa, e comunque la zona del cielo che si vede con i grandi telescopi è molto piccola. A uscire con una persona che magari ne sa più di te, quindi l'associazione astrofili, questi amatori delle stelle che sono disposti su tutto il territorio nazionale, uscire con un binocolo, mettersi veramente fisicamente con un plaid per terra e farsi spiegare un po' le stelle. Noi ogni estate lo facciamo ai Giardini Margherita, qui portiamo un laser, la gente si sdraia per terra e noi raccontiamo i fatti del cielo con questo puntatore. È sufficiente un binocolo o addirittura occhio nudo? Un binocolo. No, occhio nudo oppure un piccolo binocolo. Per esempio, giusto per i nostri ascoltatori, sì. La sera verso ovest vedete due stelle molto brillanti. Sì. In realtà non sono stelle. Ma è un pianeta, esatto. Sono infatti, stavo per farti quella domanda lì io adesso. Infatti, quella più bassa è Venere. Sì. Venere, dal punto di vista dell'osservazione, è piuttosto noiosa, per cui non vale la pena. Ma quella sopra è Giove. Giove, con un piccolo binocolo, riuscite a vedere, per esempio, i quattro satelliti, Io, Europa, Ganimede e Callisto, che sono stati scoperti da Galileo. E se uno ha pazienza di rivedere Giove il giorno dopo, vede che queste lune girano intorno a Giove, si sono spostate, e quindi è già un'osservazione scientifica da un certo punto di vista. Ecco, tra l'altro in questi giorni io sono a Milano e ieri era visibilissima perché c'era una luna, c'era una quasi calante in questo momento, per cui la luce è proprio giusta, e c'è un momento del giorno in particolare con la posizione dove tutto questo è assolutamente visibile e molto apprezzabile. Sandro, sì, c'è un momento dell'anno, siamo in Italia, migliore per l'osservazione del cielo? No, dovete pensare che la disposizione delle costellazioni varia a seconda tra l'estate e l'inverno, per cui lo spettacolo è diverso, è sempre diverso, e per cui non c'è uno, cioè, ovviamente d'estate è più bello perché fa caldo. Però vale sempre la pena osservare il cielo, questo è l'invito che Sandro Bardelli ci fa. Vi ricordo il sito del loro osservatorio www.bo, che sta per bologna.astro.it, e poi vi invito a cercare anche gli altri in giro per l'Italia. Grazie davvero Sandro, buona domenica. Va bene, grazie a te, ciao, arrivederci. Il riposo del guerriero. Alle 11:07 continuiamo con il riposo del guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini qua su Radio 24. Cerchiamo di divertirci low cost, spendendo poco, il meno possibile, insomma, però cercando di fare cose anche un po' fuori dal consueto. E voglio ricordarvi il numero verde, perché alle 11:30 giochiamo con il mistero in 24 minuti. Lo ricordo, fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. E vi ricordo anche che ci si può prenotare esclusivamente dopo le 10 della domenica, lo dico per gli ascoltatori che chiamano durante la settimana o prima del programma, o chi scrive via sms, non vale. Il numero verde è 800 24 00 24. Allora, veniamo intanto alle vostre proposte. Allora, Gianluca da Bergamo: ciao Stefano, tra amici, un DVD conosciuto, un arbitro mette in pausa e chi partecipa descrive scenari e dialogo della parte successiva. E quindi è un po' un modo carino di giocare a un gioco come Sinit, così si chiama, il gioco dedicato al cinema, ed è un bel modo anche per cercare di ricordare le scene e ricordare i film, o anche scoprire dei film che prima non si conoscevano. E Silvia invece, che ha scoperto il Nordic Walking, ne abbiamo parlato fra l'altro ne abbiamo parlato in una delle puntate del Riposo del Guerriero, parlano proprio di sport alternativi. Ancora, perché sono arrivati tantissimi messaggi, chi ama il giardinaggio, chi ha scoperto quindi il giardinaggio, chi consiglia al posto di cani e gatti i coniglietti nani, perché costano solo 14 euro e sono molto divertenti e affettuosi. Però vabbè, questo è un modo diverso, non è tanto per passare il tempo ma per avere un compagno. Allora, ancora c'è chi mi scrive: ti ricordi le click clack? Io me le ricordo, erano quelle due palline durissime collegate a ognuna una corda con un anello. Bisognava tenere l'anello fra il pollice e l'indice e far sbattere le due palline in alto e in basso, e immancabilmente ci si spaccava i polsi perché erano durissime, e quando sbagliavi ti colpiva proprio l'osso del polso e facevi la famosa frattura biossea. Le hanno ritirate dal mercato per quel motivo lì ai tempi, perché un sacco di bambini si facevano male, io compreso, e non sono riuscito a non rompermi il polso, me lo sono rotto in un altro modo cadendo dai pattini, ma comunque con le click clack no, me ricordo molto bene. E devo dire che le bolas che prima Andrea Viganò ci ha insegnato a costruire fanno molto meno male, anzi non fanno male per niente e sono più divertenti. E poi Claudio scrive una cosa curiosa. Quello abbiamo parlato prima con il nostro astrofilo, e abbiamo, così, tra le domande curiose dei bambini c'era quella di come possono espletare le loro funzioni corporali gli astronauti. Non abbiamo dato una risposta e io non ce l'ho onestamente. E Claudio scrive: lo dica anche a noi come fanno, siamo adulti ma non lo sappiamo. Allora Claudio, tu mi hai dato l'idea per la puntata di settimana prossima, che sarà: come fanno a cercheremo di dare le risposte a cose strane. Come si fa a fare questo? Come si fa a fare quell'altro? Potrebbe essere questa la prima domanda di settimana prossima. Se avete quindi delle domande curiose, proprio come i bambini, come fa a succedere questo, ad avvenire questo, vedremo di dare una risposta nel riposo del guerriero la settimana prossima. Detto questo, stiamo parlando in qualche modo di scienza e continuiamo a farlo. Michele Pilu, buona domenica. Buongiorno. Michele, buongiorno. Allora, buongiorno. Siamo a un padiglione dell'Italia in miniatura, e l'Italia in miniatura è un parco che c'è vicino a Rimini e che appunto ha un'Italia in miniatura, ha anche delle attrazioni, ma anche questa particolarità, questo Luna Park della scienza. Fino alla metà di marzo, quindi fino all'apertura del parco vero e proprio, l'ingresso costa solo 10 euro e dà la possibilità, oltre a visitare l'Italia in miniatura, anche di visitare questo Luna Park della scienza, che è aperto sempre, però in questo momento appunto il biglietto è meno caro, semplicemente perché è meno costoso, ecco, non meno caro ma meno costoso, perché il parco è chiuso a metà e c'è aperta la possibilità di vedere l'Italia in miniatura, e l'altra è quella del Luna Park della scienza di cui adesso parliamo. Dico bene, Michele? Funziona così? Esatto. Allora, cosa succede dentro questo Luna Park della scienza? Un Luna Park dentro un altro Luna Park, diciamo. Diciamo, Luna Park della scienza è uno spazio di circa 500 metri quadri, contiene una quarantina di exhibit, cioè queste macchine in cui si può giocare, interagire per visionare diversi fenomeni della fisica, che vanno dalla meccanica all'ottica alla termodinamica, eccetera, in modo molto divertente. E successivamente poi c'è uno spazio dedicato, diciamo una sorta di teatro, dedicato alla divulgazione della fisica utilizzando il linguaggio teatrale. Quindi è possibile partecipare al Science Show, dove io e i miei colleghi ci occupiamo appunto di raccontare cose diverse relative alla fisica, che vanno dalla struttura della materia, all'ottica, alla forza di gravità, alla gravitazione in generale. Ai più piccoli fino ai più grandi, e questo è un momento molto interattivo in cui si può appunto giocare e partecipare. Ci sono esperimenti curiosi. Ovviamente la cosa più interessante nella parte della scienza è il fatto di provare personalmente gli esperimenti, e quindi provarli sulla propria pelle, vederli con i propri occhi, scoprire delle reazioni assolutamente inaspettate dovute proprio alla fisica. Voi avete costantemente qualcuno che spiega quello che sta succedendo, oppure i visitatori sono liberi di provare le proprie esperienze e informarsi attraverso, non so, cartelli, attraverso dei monitor? Come si impara? Allora, noi siamo a disposizione del pubblico in ogni momento. Diciamo, noi prediligiamo la possibilità che il visitatore possa avvicinarsi agli exhibit, a questi oggetti, in modo libero, esatto, anche perché ecco, sono accompagnati da una cartellonistica divertente, dove ci sono due personaggi, un fumetto sostanzialmente, che li accompagna alla scoperta delle varie leggi della fisica. Ecco, però se qualcuno volesse saperne di più o capire meglio il meccanismo, ci siete voi sempre disponibili a raccontare quello che sta succedendo. Senti, Michele, hai uno tra i tanti esperimenti che ci sono, uno che in particolare ti piace di più o ti emoziona di più, o quello che diverte di più il pubblico? Sì, beh, quello, diciamo, allora ne posso raccontare uno per i più che riguarda i più piccoli, che di solito fa molto effetto. Sì. Ed è il fatto che noi abbiamo la possibilità di rubare le ombre. Questa è una cosa magari alla Peter Pan, insomma. Alla Peter Pan, esatto. Abbiamo sostanzialmente un pannello fosforescente, sì, sulla quale i ragazzi si possono, diciamo, posizionare, e poi lì con una luce abbastanza intensa possiamo giocare e rubare l'ombra e spiegare il meccanismo della fosforescenza anche attraverso alcune luci colorate che a volte funzionano e a volte no. Quindi io mi muovo e l'ombra resta? Funziona così? Esatto, bravissimo. Però non c'era, cioè è una cosa nuova, l'avete messa da poco? No, questa è lì dall'inizio. E non me la ricordo e non l'ho fatto, vedi? Perché l'ho perso. Allora, ovviamente questo dipende dalla curiosità del gruppo che si segue, allora ci si può intendere di più, dal loro tempo che vogliono dedicare e allora ci lasciamo andare proprio. Ecco, va bene, allora andate a scoprire come è possibile rubare l'ombra e vederla lì ferma. Poi ci sono tantissimi altri esperimenti, devo dire è molto divertente toccarli e così palparli con mano e scoprirli anche, finalmente vederli, non soltanto leggerli. Grazie Michele Pilo, buona domenica. Vi ricordo il sito che è www.lunaparkdellascienza.it. Il riposo del guerriero. Alessio Maurizio ha doppiato in diretta il suo promo adesso, perché è qua di fronte a me, l'ho detto lui dal vivo, è per la prima volta. Luca Conti, ciao, buongiorno. Buongiorno. Luca, l'ho chiamato perché dovremmo stare zitti, nel senso che è stata proposta, è stato proposto il silenzio durante la Quaresima anche su Twitter, poi non credo che sia stato molto rispettato, però volevo parlare di Twitter perché esiste anche questo modo di divertirsi. Io ho voluto quasi in chiusura parlare della rete, perché c'è anche questa, perché tu hai scritto un libro, si intitola Twitter al 100%, comunicare, creare relazioni, divertirsi, edito da Hoepli. Io adesso non entro nel merito di come comunicare, magari lo faremo, sì, come creare relazioni, ma volevo chiederti come è possibile divertirsi attraverso Twitter. Beh, è un modo unico per entrare in contatto diretto con i nostri beniamini, che siano sportivi, attori, personaggi televisivi o Stefano Gallarini, e possiamo comunicare con loro, quindi sapere che cosa fanno, quello che condividono, foto, esperienze al di là delle loro apparizioni pubbliche, e possiamo mandargli messaggi diretti, ricevere da loro risposte, e questo è un modo, insomma, un po' più divertente che quello di guardare anche per esempio guardare la televisione commentandola insieme ad altri che la stanno guardando in quel momento, e quindi vivere delle esperienze che di solito viviamo passivamente e da soli in compagnia e dicendo la nostra. Ecco, questa idea di raccontarsi attraverso Twitter è nata negli Stati Uniti soprattutto perché c'era la possibilità un po' più immediata, grazie ai BlackBerry, di scrivere immediatamente, no? E poi anche grazie agli SMS. Invece qua in Italia la cosa è arrivata un po' dopo. E quindi dagli Stati Uniti è partita, e adesso devo dire che sono molti personaggi italiani che utilizzano Twitter per raccontarsi, a cominciare da Fiorello, che insomma ha fatto molto discutere da questo punto di vista. Ma di fatto sì, c'è stata forse un'esplosione che io ho tracciato dagli ultimi 6 mesi a questa parte. Dall'autunno scorso sono arrivati diversi grandi firme dei giornali, a partire dai direttori dei quotidiani più letti, e da lì c'è stato un po' un effetto domino, personaggi televisivi uno dietro l'altro si sono trascinati, e oggi su Twitter veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Ecco Luca, secondo te, facendo una traccia, una curva, quanto successo continuerà ad avere, e dopo quanto tempo cominci a vedere, se ci sarà mai, però penso che ci sarà, una discesa? Ma un po' tutti i fenomeni della rete, tutti i social network in particolare, hanno una curva tipica, che è quella per cui cominciano a essere usati da un gruppo molto ristretto, che sono gli utenti più smanettoni, quelli che appena esce qualcosa di nuovo la provano. Poi questo numero ristretto sale una prima soglia, che è quella del pubblico di chi usa la rete più intensamente, ma non è il pubblico di massa, e poi arriva la maggioranza, quindi del pubblico che non è dentro internet tutto il giorno, tutti i giorni, scopre dei nuovi fenomeni e cerca di avvantaggiarsene. Noi oggi siamo all'inizio di questa terza fase, perché su Twitter si stimano esserci tra i 2 e 3 milioni di utenti, quindi rispetto ai 27 milioni di utenti che si collegano a internet ogni mese e ai circa 21 milioni che usano Facebook, siamo ancora in una fase, certo, in cui si parla molto di Twitter, ma in cui non si usa proprio come se andassi a comprare il pane alla mattina, quindi credo c'è ancora margine di crescita, e non penso che questa curva si assesterà prima di un paio d'anni. Ecco, devo dire che Twitter sta prendendo piede rispetto a Facebook, e cominciano anche a distinguersi, anche perché sono molto diverse le due forme di comunicazione. Forse non so se c'è un calo di Facebook, non conosco i numeri, quindi non lo posso dire, però sicuramente c'è un interesse in Twitter. Vedremo cosa succede, anche perché quando cominci a seguire troppe persone e troppe situazioni, comincia anche a diventare difficile, no? Quando... Ci vuole il giusto equilibrio, è un po' come tutti i fenomeni nuovi, quando li scopriamo abbiamo una fase un po' di ubriacatura, per cui questa fase di ubriacatura da Facebook è passata, quindi siamo invece nella soglia di attamento, i numeri non crescono più rapidamente, ma si sono appunto assestati su un 20-21 milioni di utenti. Su Twitter il consiglio che posso dare per divertirsi anche di più, sì, è di selezionare le persone che ci interessa di più da seguire, per cui non seguire a pioggia centinaia e centinaia di, ecco, profili. Un po' come gli amici di Facebook, non accettarli tutti per forza, ma magari fare un po' una cernita, esatto, è lo stesso discorso, esatto, alla fine. Allora Luca Conti, con te parleremo poi ancora quando tratteremo di social network nel riposo del guerriero, intanto oggi abbiamo visto solo questa parte che è il divertimento, ricordo il libro Twitter al 100%, comunicare, creare relazioni e divertirsi. Grazie Luca, buona domenica. Grazie, buona domenica a voi. Chiaramente esiste anche un Twitter personale mio che è Stefano Galla, ma c'è anche quello del programma che è Il Riposo del Guerriero. Non l'ho ancora detto perché poi quando tu costruisci una pagina devi anche seguirla e ci vuole il tempo, quindi segui Twitter, segui Facebook, il programma, perché poi c'è la diretta alla fine della fiera che è la cosa principale, e vi garantisco che seguire tutto non è così semplice, però indubbiamente molto utile, perché vedo e leggo che siete attenti al programma e alle cose che succedono e anche propositivi, e questa è la cosa che mi piace di più, lo sapete. Grazie anche per quello che state scrivendo sulla pagina Facebook del Riposo del Guerriero, ma adesso divertiamoci con i videogiochi. Video game, video game. Allora, siccome parliamo di divertirsi a costo zero, anche per i videogiochi ho voluto cercare di raccontare un sistema per videogiocare più o meno a costo zero, insomma quasi. Allora, Serse Gori, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica. Allora, Stefano, allora Serse è responsabile di un sito che si chiama chemidai.com, dove il chemidai è scritto K-E, quindi niente CH ma K, chemidai.com, ed è un sito che nasce per scambiarsi videogiochi. Sì, sì. Come funziona? Guarda, funziona, è semplice il funzionamento, cioè basta registrarsi. Una volta che si è registrati bisogna inserire i videogiochi che si vuole mettere a disposizione dello scambio. Noi consigliamo di inserire un bel po' di videogiochi nel caso, in modo tale da avere delle richieste, piuttosto che nel momento in cui si fanno delle richieste di scambio possono offrire una buona vetrina di scambio. Ecco. Nella contrattazione, la contrattazione avviene tra due utenti, c'è la richiesta e c'è l'utente che valuta. L'utente che valuta vede i videogiochi del richiedente, nel momento in cui trova qualcosa di interesse effettua la richiesta, la proposta di scambio, e poi c'è un discorso, un sistema a disposizione dell'utente dove possono anche messaggiarsi, chiedere informazioni in modo tale da concludere lo scambio. Diciamo, l'interesse di chemidai.com è quello che gli utenti scambiano. Da promettere che poi noi anche mettiamo a disposizione dei videogiochi, mettiamo sia il nuovo che l'usato, e quindi diamo la possibilità agli utenti di trovare veramente il videogioco che cercano, e lo facciamo anche attraverso una nostra vetrina. Questo può portare lo scambio, diciamo, può essere fatto lo scambio tra due utenti che hanno di due località differenti. Ecco, infatti voglio capire come funziona, perché in realtà voi avete allargato proprio quello che è il baratto, sì, no? O comunque lo scambio, sì, di cose. Sì. Però è interessante perché un videogioco, ricordiamolo, costa dai 40, quasi 50 euro fino ai 70, sì, e quindi comunque ha un costo importante, non c'è niente da fare, sono costosi. Sì. E poi una volta giocati, beh, molto spesso è inutile tenerli perché li hai giocati, a parte pochi titoli, insomma, tanti, sarebbe meglio scambiarli. adesso magari i negozi mi uccideranno, però è così che funziona, come con i libri, no? Molto spesso si scambiano, tu mi dai questo, hai letto, ecco, succede anche per i videogiochi. E devo dire che è un ottimo modo per risparmiare e giocare, perché io volevo giocare a quel titolo, non voglio dispendere 50 euro, 40 euro, ma lo scambio con un titolo che io non uso più, che ho appena finito di giocare, ed è un ottimo sistema. Dicevi, può avvenire anche tra utenti sparsi per l'Italia, e questa è la cosa interessante, ovviamente, perché il bacino di utenza si allarga molto. La spesa poi cos'è? Nella spesa di spedizione? Perché io devo spedirti il titolo... Allora, appunto per questo, cioè oltre a esserci la spesa di intermediazione del sito, che è irrisoria, parliamo di 3 euro, c'è anche la spesa di spedizione, quindi può capitare che ci sono due utenti di località differenti, perché comunque il sito è nazionale, sì. E quindi devono spedirsi i videogiochi reciprocamente. Beh, comunque, e quindi pagare quel costo. Certo, però è una spesa minore rispetto a comprarselo, anche perché poi una volta che l'hai scambiato diventa tuo. Non è un prestito. È sempre di proprietà, assolutamente, è uno scambio reale, cioè si acquisisce la licenza di gioco, quindi sia da parte di entrambi gli utenti. Chiaro, Serse, una domanda. Gli italiani come si comportano a questo punto di vista? Cioè, stanno utilizzando lo scambio o sono possessivi come su tante altre cose, quindi cercano di mantenere le cose che hanno e non vogliono cederle, oppure cominciano a capire il valore del denaro e visto anche il tempo della crisi e quindi cominciano a scambiarseli questi titoli? No, li scambiano, mettono a disposizione il proprio usato anche le aziende stesse, ormai si sta valorizzando tantissimo la permuta. Tra l'altro anche noi lo facciamo, diamo a disposizione lo strumento anche alle aziende, cioè anche le aziende possono intermediare sia lo scambio tra utenti in modo tale da abbattere quei costi di spedizione, sì. E quindi abbiamo aperto una sezione che è www.chemidaipoint.it dove le aziende si possono affiliare e quindi intermediare della stessa località gli stessi utenti. E quindi svuotare anche i magazzini, un po' come succede con le edicole quando hanno i titoli di giornali e riviste vecchie che propongono a prezzi molto scontati. Sì, sì, con noi le aziende che si affiliano danno a disposizione anche la propria vetrina, in modo tale che l'utente, oltre a scegliere attraverso altri utenti, sceglie anche attraverso l'azienda stessa. Possono farlo tranquillamente inviando una mail ad affiliati@chemidai.com dove mettono i riferimenti delle aziende e poi facciamo la proposta per la collaborazione in modo tale da abbattere, ripeto, quei costi di spedizione, perché tante volte gli scambi avvengono tra utenti della stessa località e quindi l'intermediazione avviene attraverso l'azienda affiliata a chemidai.com. Ecco, devo dire che di iniziative di questo genere ne esistono anche a livello internazionale, però ho scelto questa semplicemente perché è tutta italiana e quindi io insomma è quello che appoggio proprio l'iniziativa italiana e poi è più giusta anche per noi utenti di questo paese. Serse, io ti ringrazio molto, vi ricordo il sito che è chemidai.com con la K e andate avanti così perché è sicuramente un buon modo per videogiocare e risparmiare. Buona domenica. Tantissimo. Serse. Come no, grazie, buona domenica anche a te, ciao. Il gastronauta. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come mangiamo risparmiando? Senza spendere, guarda, le botte. Io ultimamente ho mangiato in posti risparmiando sicuramente anche discretamente bene, do un indirizzo. Sì. Don Abbondio a Forlì, di fronte al Museo di San Domenico, ai Musei di San Domenico. Tra l'altro i Musei di San Domenico ci sono sempre delle mostre bellissime e appunto questo posto, devo dire, è una trattoria, una vecchissima trattoria dove secondo me veramente il rapporto qualità-prezzo è interessante. Oppure anche a Verona, dove io ho scritto un articolo proprio domenica definendolo un ristorante rock, e quindi tu che sei un grande esperto di musica mi chiederai perché rock, beh, che si chiama La Locanda ai Quattro Cuochi. Anche questo secondo me è un ristorante appena aperto, è una trattoria, ristorante appena aperto, molto minimalista, diverso da quello di Forlì che è una vecchia trattoria, questo ovviamente c'è un concept completamente nuovo, anche questo ha un prezzo giusto, quindi si può, ci sono diciamo ormai delle trattorie, ristoranti, dei posti dove si mangia, come dico io, dietro al banco, cioè di negozi, di botteghe che poi diciamo sfornano anche qualche piatto, dove si può mangiare con il giusto, quindi senza raggiungere cifre enormi, ma io credo che le cifre enormi si raggiungono sempre sul vino, perché le bottiglie di vino, se uno prende una bottiglia intera, veramente il costo incide, specialmente se si è in due, se si è in quattro o in sei viene suddiviso, ma in due pesa come, quindi molto meglio ricorrere al bicchiere. E poi probabilmente la migliore soluzione è mangiare a casa. Vabbè, c'è perché questo, sì, è ovvio, però... Perché anche se prendi dei prodotti magari di grande qualità, risparmi poi nel cucinato. Ecco, Davide, secondo te il prezzo giusto però qual è? Perché poi quello volevo capire alla fine. Il prezzo giusto economico, tra virgolette, qual è? Ma sai, non esiste un prezzo giusto, come posso dire, astratto. Io credo che il prezzo giusto dipenda molto dalla soddisfazione che uno ha. Io lo rapporterei sempre alla soddisfazione, cioè sì, nel senso di fare un rapporto qualità. Senti, facciamo una cosa, inventiamo il rapporto soddisfazione-prezzo, ti piace? Sì, no, appunto, è quello che io volevo arrivare. Questo è determinante, perché tu puoi spendere 12 euro ed essere soddisfatto, ne puoi spendere 11 ed essere completamente insoddisfatto, e puoi spendere 50 ed essere insoddisfatto, e magari 100 ad essere soddisfattissimo. Quindi secondo me è questo che conta alla fine, perché quando decidi di andare a mangiare fuori devi mettere nel conto che sicuramente la spesa c'è ed è superiore a quello che mangeresti a casa, e allora bisogna andare a cercare dei posti che ti danno soddisfazione, perché se tu ci paghi molto e sei anche soddisfatto, a quel punto lì credo che sia il massimo del disastro. È così. Senti, per quanto riguarda il vino, stavi dicendo il bicchiere, però secondo me dopo tre bicchieri conviene prendere la bottiglia, o mi sbaglio? Sicuramente, perché una bottiglia contiene sei bicchieri, e quindi più o meno sicuramente se prendi tre bicchieri te le fanno pagare di più di quello che costa poi il costo complessivo di una bottiglia, quindi oltre tre bicchieri conviene prendere una bottiglia, non ci sono dubbi. Ecco, quindi sappiamo, quindi, cioè, questo, se siamo da soli è una cosa, se no... Ma vedi, noi tiriamo sempre la croce addosso al bicchiere, al costo del vino, però dobbiamo ricordarci che ci sono molti ristoranti che hanno un costo coperto, pane coperto, che è veramente indecente. Ci sono altri ristoranti che paghi l'acqua minerale a dei prezzi veramente impossibili rispetto a quello del costo di produzione. Io credo che si guadagni molto di più con una bottiglia d'acqua minerale che con un vino, sicuramente, perché il vino te lo devi tenere e te lo devi tenere in carico e lo paghi, però l'altra invece la smaltisci velocemente, ti costa molto meno e ne dai via tanta durante la giornata. Quindi io credo che bisognerebbe cominciare a puntare anche il dito verso le acque minerali e verso il pane coperto, non solo verso tutto il resto. Grazie, è un buon modo per risparmiare proprio anche questo, cominciando ovviamente da loro. Quindi il rapporto soddisfazione-prezzo, mi piace, usiamolo. Ciao Davide, ci sentiamo domenica prossima, grazie. A presto. Ciao, tra pochissimo giochiamo con il mistero in 24 minuti, 800-24-0024. Il riposo del guerriero. Partiamo subito con il mistero in 24 minuti e poi leggerò anche i tanti messaggi che continuano ad arrivare, che riguardano proprio ancora il divertimento low cost. Un mistero in 24 minuti. Per voi fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, quindi libri cartacei ed elettronici, si parte appunto da 1000 euro, ma più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. La risposta può essere una delle notizie della settimana oppure un personaggio, qualcosa di molto conosciuto. Il numero per partecipare 800240024 ed ecco il primo indizio. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. La forza straordinaria di questa canzone sta nel fatto che a qualunque età tu l'ascolti funziona sempre, quindi è questa la genialità del testo. Laura da Reggio Calabria, buona giornata, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti. Laura, l'avrai riconosciuto, Renato Zero, dei migliori anni della nostra vita. Siamo a 1000 euro, volevo sapere cosa vuoi fare, dare una risposta. Allora, mi butto, sì, do la risposta. Vai Laura. E dico il maxi risarcimento della RAI alla FIAT per la questione relativa ad Anno Zero. Grazie Laura, buona domenica, ciao. Anche te, ciao. Grazie, ciao. Rino da Pisa, buongiorno. Buongiorno. Ciao, ciao Rino, buongiorno, eccoci qua. Senti, io chiederei un altro indizio. E allora ascoltiamolo questo altro indizio. Eccoci qui, questo è il secondo indizio. Rino, vuoi pensare? No, no, penso che chi ha risposto per primo, insomma, ci è andato via. Senti, allora, direi Dul Becco, così come omaggio alla sua scomparsa. Grazie, Rino. Buona domenica, grazie. Bella risposta, Rino. Come sempre, le risposte possono anche essere quelle giuste, ma le scopriamo soltanto, soltanto allo scoccare del 24esimo minuto. E adesso gli aggiornamenti sul traffico. Un mistero in 24 minuti. 11:46 minuti. Federico da Lucca, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Ciao, Federico. Siamo a 500 euro in questo momento. Che sono ancora. E proviamo. A far che cosa? A dare una risposta. Rimaniamo a 500 euro, Federico. I 20 anni di Mani Pulite. Con Di Pietro che si è messo anche a piangere. Grazie Federico. Sì. Ciao, buona domenica. Grazie. Intanto stavo leggendo ancora i vostri SMS per quanto riguarda il divertimento low cost. C'è chi scrive: ho idea che il volontariato si dovrebbe sviluppare anche in questo ramo, il passatempo. Perché trovarsi ai giardini e seguire la lettura di un libro, un commento al libro sull'autore, organizzare lezioni di giardinaggio, potrebbe essere un buon modo di far volontariato e impiegare il tempo in un modo che possa migliorare la vita delle persone. Francesco da Brindisi. Sì, ciao Stefano, buongiorno, buon argomento. Qual è il tuo passatempo, se ce ne hai uno? Ovviamente parto a ascoltare la radio. Giardinaggio. Anche tu? Sì, mi piace molto. Ma io non ci riesco, non sono proprio capace. Cioè, appena mi ci metto, le piante mi guardano e dicono e si io dico di avere il pollice viola, non il pollice verde. Allora, Francesco, cosa vuoi fare? Ci sono altri indizi per te? Se no siamo a 500 euro, devi dirmi tu. Ma io ero partito con una risposta, poi con la seconda indizio ho cambiato. Cosa vogliamo fare? Allora, rispondo, si tratta di... Allora, aspetta, sentiamo i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. I migliori anni dell'anno. I soldi fanno girare il mondo, così canta anche Liza Minnelli in Money Money. Per questo indizio, il primo indizio invece è Renato Zero, dei migliori anni della nostra vita. Allora, dicevamo Francesco, anzi dicevi. Allora, diciamo che ero partito con una risposta un po' ci porta in Russia, ci porta in Siberia. Ma con la prima risposta, anche se la seconda, il secondo indizio mi lascia vivuto un po' fuori. È nata una pianta, è stata fatta fiorire una pianta, e qui c'è il pollice verde, da un seme di 32.000 anni che è stato in Siberia, questo è successo in Siberia, insomma. Per cui questo seme ha generato... C'è un seme... vecchio di 32.000 anni. Vabbè. Di 32.000 anni. Vedi? Davvero, finché c'è vita c'è speranza, e i migliori anni della nostra vita sicuramente ci stava bene. Ma nei mani, perché chissà quanto questo seme quanto potrebbe valere, scusami, alla fine. Esatto. Credo che possa comunque funzionare. Chi lo sa? Grazie Francesco. Vediamo. Buona giornata, grazie. Ciao. Ciao. Beatrice, buongiorno. Buongiorno. Ciao Beatrice. Buongiorno, allora, a tutti. Cosa facciamo? Ma io proverei a buttarmi. Anche tu? Sì, sì. E stavo pensando, cioè la mia idea era i 10 anni dell'euro, il compleanno dell'euro. che pochi volevano festeggiare. Sì, sì, diciamo che non è un gran compleanno. Sì, se lo sono dimenticati tutti, non ho capito perché. Però magari noi no, questo voglio dire. Sì. Grazie Beatrice. Prego, brava per la risposta. Ciao. Non posso dire se è quella giusta o sbagliata, però insomma, quando mi piace il vostro ragionamento lo dico. Agnese da Ferrara, buongiorno. Agnese. Allora, io vorrei provare a dare la risposta anch'io. Anche tu, vai Agnese. E anche se mi sa che la prima ascoltatrice mi ha, forse, non dico rubato l'idea, però insomma provo a dare la mia. Magari no, Infatti, io dico la sentenza che ha condannato per il servizio considerato denigratorio nei confronti della Fiat di Riccardo Folmilli all'epoca di Anno Zero, ecco. Io dico la sentenza. Beh, ma Laura ha detto proprio quello, eh. Avevo capito che aveva detto l'ammontare del risarcimento. No, cioè lei dice la sentenza che condanna la RAI. Sì, ho capito. Cioè il concetto allora era dico, quello lì. Posso dire la... Ah, cioè, quindi è la stessa cosa. Sì. Quindi non posso dire né risarcimento né... No, puoi dire il personaggio. Sì, allora dico Riccardo Formigli, dico il personaggio, eh. Corrado Formigli. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Grazie Agnese, buona domenica. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Alessandro dalla provincia di Varese, buongiorno. Ciao Stefano. Ciao Alessandro. Allora, se avete, volevo sentire un altro indizio. Eccolo qui, il terzo indizio arriva. Io t'ho scritto una canzone perché sei la nostra guida. Non c'è media che ti sfida. Tu vai stare tutti a casa e la gente guarda te, annullando ogni rapporto con il prossimo e con sé. E così un problema in meno, quello di dover parlare. Ciò che resta ormai da fare è guardare ed ascoltare. Grazie anche a chi l'ha visto, che a mia madre tanto piace. Così che nessuno è libero di scappare. Tanta pace. Televisione, televisione. Pubblicità. Alessandro, eccoci qui. Allora, questo è il terzo indizio, televisione di Giovanotti. Allora, noi diciamo il processo Mills. Mi piace molto il noi diciamo. Sì, perché qui c'è tutta la famiglia in macchina. Dove state andando? Stiamo tornando dalla montagna, via. Ah, si torna presto, va bene. Si torna presto perché su pioveva. Ah, invece qua il sole avete trovato. Vai, andando a Milano, giù. Vabbè, no, com'è? Sì, è un gran bel sole. È sempre voi. Così, vabbè. Alessandro, buon rientro a te e alla tua famiglia, ovviamente. Grazie, grazie, grazie a voi. Allora, ma Giovanna da Trento, scusatemi, Giovanna da Trento, pronto, caduta, eccoci qua. Mara da Milano, sì, facciamo buongiorno. Così. Mara, ciao, buongiorno. Allora Mara, noi abbiamo un po' di risposte, siamo a 300 euro in questo momento. Ma io ero partita con tutto un altro personaggio, però adesso direi tutti i soldi dati a Celentano per, per essere intervenuto al Festival di Sanremo. Dati in beneficenza anche a te, mi ha detto, no? No, non eri nell'elenco, non vabbè. Ti hai ricordato di me. Mi spiace, vabbè, ma neanche di me. Grazie Mara. Grazie, ciao, ciao. La risposta potrebbe anche essere giusta, quella di Mara, ma ripeto, lo scopriremo tra poco, credo che stiano pochi minuti prima dello scoccare del 24esimo. Marco da Piacenza, buongiorno. Buongiorno. Allora Marco, cosa vogliamo fare? Avevo una bella idea, poi però mi è stata stroncata dalla canzone di Giovanotti. Mm. Per cui dirò Renato Zero, che è stato messo tra i papabili per la conduzione del prossimo Sanremo. Chi lo sa? Grazie Marco, ciao. Buona domenica. Ciao. Stefano da Biella, buongiorno. Buongiorno. Cosa succede a Biella? Bella giornata, per fortuna. Allora. Almeno quello. Stefano, cosa vogliamo fare? Allora, io provo. Anche proviamo. Tu, sì, la morte del premio Nobel. L'hanno già detto, di Dulbecco, dici? Ah, sì, esatto, sì, perché io mi... Sai che cosa? L'hanno già detto. Sì, perché io sono rientrato adesso, mi hanno chiamato e quindi... Ecco, facciamo così allora Stefano, siccome è scaduto il tempo... e tu non hai giocato, quindi puoi giocare anche la settimana prossima, tranquillamente. Ok? Grazie, grazie Stefano. Allora, saranno felici tutti quelli che dicono che gli indizi sono difficili, perché sono riuscito a far vincere qualcuno. c'entro niente io, è che ci arrivate, probabilmente, non lo so. Laura da Reggio Calabria, ciao, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono qui, sono contentissima. Allora, per te sono 1.000 euro, per cui insomma il premio più grazie. Grosso, ti porti a casa questo. Come ci sei arrivata solo col primo indizio? Ma ho sentito la notizia e poi ho sentito l'indizio, è nato zero e ci sono arrivata. Ma per che cosa? Per zero? Per, non lo so, per intuito. Volevo capire che cosa ti ha fatto mettere insieme le cose. Come? Non ho capito. Volevo sapere cosa ti ha fatto mettere insieme gli indizi. L'indizio, tu solo con un indizio come ci sei arrivata? Ho sentito questa notizia e l'ho collegata alla subito, mi è venuto così collegare alla canzone. Distinto, va bene. Allora Laura, per te la mitica lampadina. Per te sono 1.000 euro, la lampadina si è accesa bene, buona domenica e complimenti, davvero. Allora ripeto la risposta. Buona domenica anche a te. La RAI è stata condannata insieme a Corrado Formigli a risarcire 5 milioni di euro per il servizio andato in onda durante Anno Zero sulla Mito, la macchina della Fiat. Il primo indizio Renato Zero, i migliori anni, perché era anni e zero, per cui insomma insieme c'era l'indicazione della trasmissione. Money, perché si parla di soldi, televisione ovviamente perché è un programma televisivo. Grazie, come sempre ci sentiamo domenica prossima puntuale alle 10. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Stefania Tagliaferri in assistenza, Paolo Corleone in regia e a voi instancabili ascoltatori. Continuate a stare qui con Alessio Maurizi, si può fare tra pochissimo. Noi a domenica prossima alle 10.